Ma mi rendo conto che ci siamo sbilanciati parecchio, perché abbiamo promesso molto. Speriamo di riuscire a mantenerlo. I primi risultati abbastanza presto. Diciamo che peggio siamo messi, prima vediamo i risultati. Questa è una regola che nell'allenamento e nello sport funziona sempre. Difatti io sono contento quando arriva da me qualcuno che o è molto in sovrappeso, o mangia malissimo, o davvero sul piano fisico è conciato male, perché con lui sono sicuro che avrò successo in tempi relativamente brevi, indipendentemente dalla bontà del programma d'allenamento. Per cui se siamo messi male, direi che già dopo una settimana potremmo essere accorgerci che qualcosa comincia a funzionare meglio. E comunque non abbiamo scelto casualmente un programma che si articola sulle 4 settimane, il quale va molto bene perché si adatta, ovvio, al mese di agosto, però va molto bene anche perché qualsiasi microciclo di allenamento a qualsiasi livello considera le 4 settimane come il tempo utile per ottenere effetti significativi. Quindi siamo perfetti. Questo anche sugli atleti o sugli atleti di altissimo livello, quindi certamente anche sulle persone che avranno la capacità, la voglia, l'entusiasmo per seguirci in questo percorso. Quindi vedremo i risultati saranno inversamente proporzionali alla nostra forma fisica? Da un lato è direttamente proporzionali alla capacità con cui sapremo seguire questo programma con continuità. Perché però questo dipende anche molto da lei, dottor Confalonieri. Se lei ci fa un programma con molto appeal, noi lo seguiamo, e se no poi le scriveremo e diremo: dottor Confalonieri ci ha chiesto delle cose impossibili, le faccia lei. Va bene, accettiamo la sfida. Allora, iniziamo oggi. Su che cosa lavoriamo? Dunque, il primo obiettivo è ovviamente e naturalmente un obiettivo assolutamente generale. Quindi dobbiamo partire, per rimetterci in forma, da un condizionamento dell'apparato cardiovascolare, dell'apparato respiratorio, quindi del nostro cuore, dei nostri vasi, dei nostri polmoni, dei nostri bronchi, che devono riabituarsi all'attività fisica. Un brevissimo inciso: noi sappiamo che qualsiasi tipo di attività, qualsiasi tipo di esercizio dipende dall'attività muscolare, diciamo qualsiasi movimento dipende dall'attività muscolare, e l'attività dei muscoli, la contrazione e decontrazione dei muscoli dipende fra l'altro dalla disponibilità di ossigeno. L'ossigeno arriva a livello muscolare grazie all'apparato respiratorio, che lo introduce all'interno del corpo, e all'apparato cardiocircolatorio, che lo porta in tutto il corpo. Quindi c'è un'equazione diretta: attività fisica, impegno muscolare, richieste di ossigeno, attivazione dei sistemi respiratorio e cardiocircolatorio. Quindi con qualsiasi attività fisica noi rimettiamo in moto e possibilmente in forma questi due sistemi. Quindi l'obiettivo di questa prima settimana di lavoro è proprio quello di riabituare all'esercizio il cuore, i vasi e i polmoni. E operativamente cosa facciamo? Perché è un meccanismo molto complesso, sofisticato. A volte facendo moto avvertiamo proprio la sensazione del classico fiatone, a volte magari sentiamo il dolorino alla milza, ci viene il crampo. Sicuramente lei ci consiglierà un programma che ha come caratteristica la gradualità, però chi è fermo da un po' di tempo è come una macchina ingolfata, si dice, dottor Confalonieri? Sì, assolutamente, e dovremmo riprendere facendo relativamente poco e facendola a un'intensità di lavoro bassa. Quindi, traducendo, io direi che questa prima settimana noi possiamo porci come obiettivo un 3 allenamenti, quindi identificare 3 giornate nell'arco della settimana nelle quali allenarci, e scegliere un'attività che noi definiamo di tipo aerobico, quindi di resistenza, quindi che dipende dalla disponibilità di ossigeno, che ci piaccia, che possiamo praticare facilmente. Le attività di base più importanti sono ovviamente il cammino. Evito di parlare della corsa in questo momento perché mi rivolgo a un pubblico di pigri, di sedentari. La bicicletta, in particolare direi la mountain bike, che è un tipo di bici che si adatta a tutti e a tutti i terreni, proprio per il tipo di rapporti che ci consente di utilizzare. Sì. E che ci consente anche un rapporto con la natura assolutamente gratificante e divertente. Il nuoto o l'attività in acqua, anche in verticale, per chi non sapesse nuotare, o comunque un esercizio fisico in acqua, il nuoto per chi sa nuotare, la ginnastica in acqua, l'acqua walking o il cammino in acqua per chi non sa nuotare, o eventualmente per chi avesse questa predisposizione, queste capacità, anche la voga, cioè il fatto di remare con la canoa piuttosto che con altre imbarcazioni. Quella mi sembra un po' più impegnativo, eh? Beh, però si sta diffondendo parecchio, magari qualcuno dice che okay, a me piacerebbe, che so, integrare, sono al mare, mi piacerebbe integrare una nuotata magari di un quarto d'ora a 20 minuti con prendo un quarto il patino d'ora e 20 remo. Minuti di remo e faccio un lavoro che è molto molto completo. Quindi la prima cosa che invitiamo a fare i nostri ascoltatori è identificare quale di queste attività preferirebbero fare ed eventualmente quali integrare, perché in questo caso anche alternare due attività diverse, che so, la mountain bike e il cammino, va benissimo, eh? Non c'è nessuna controindicazione, anzi. Quindi ripetiamole, sono il cammino, la bicicletta con una preferenza per la mountain bike, il nuoto in verticale o la classica nuotata in piscina, oppure lei si è sbilanciato anche facendoci vogare. Perfetto. Ecco. Durata. Bravo, è lì che la volevo. Durata. Ecco, la durata è variabile in funzione non soltanto delle nostre condizioni, come ovvio, ma anche del tipo di sport che scegliamo. Allora, andiamo perché nel dettaglio. Perché c'è un consumo metabolico, poi accenneremo a questo in funzione del dimagramento, magari, e c'è un impegno cardiovascolare e respiratorio variabile in funzione del tipo di esercizio. Quindi sì. Io direi, se scegliamo il cammino, e tutto sommato anche il cammino su percorsi ondulati che prevede anche magari un po' di salita, un po' di discesa, prendiamoci un impegno di circa un'ora, quindi un tre volte la settimana 60 minuti di cammino. Ecco, se scegliamo la mountain bike direi che possiamo stare sui tre quarti d'ora, un'ora anche per questo tipo di attività. Se scegliamo invece un'attività in acqua possiamo stare sui 30-45 minuti. Come vedete, vi lascio sempre una variabilità di circa 15 minuti che è relativa all'individualità, cioè all'età, alle condizioni di allenamento, alle capacità dei soggetti. Però sotto non si può stare, cioè se decidiamo di camminare dobbiamo camminare un'ora. Sotto non si può stare, tutto sommato non starei neanche sopra però, perché poi dovremo eventualmente incrementare la durata nelle prossime settimane. Non penso che ci sia pericolo. Ma se la gente entusiasma magari vuol partire dicendo vabbè, faccio se serve un'ora subito. Questo è un problema che c'è spesso in tante cose. Se un'ora mi fa bene, un'ora e mezza mi farà molto meglio. No, è un po' come i medicamenti, non è detto che se piglio una pastiglia mi fa bene, se ne piglio due mi fa meglio, anzi, ecco, lo stesso vale con lo sport. Tante volte nelle nostre trasmissioni abbiamo definito l'esercizio fisico come un farmaco, sì. Quindi la somministrazione deve essere corretta. Mi raccomando, allora non esagerate. Non esageriamo. Ecco, però questa ora di cammino, il tre quarti d'ora di mountain bike piuttosto che il nuoto, ci dia una buona notizia. Ci farà anche un po' dimagrire o no? Sì, direi che... Questa secondo me funziona. Direi che fra tutte le attività che andremo a proporre nell'arco del mese, queste sono quelle che hanno anche un effetto dimagrante maggiore. L'importante è farle ad un'intensità relativamente bassa. Teniamo come riferimento dell'intensità di questa attività circa l'incremento del 50% della nostra frequenza cardiaca a riposo, quindi se una persona ha una frequenza cardiaca a riposo di 70 dovrà stare intorno a 105-110 di frequenza, 70 più sì. 35-40, e soprattutto ricordiamoci di mangiare in modo adeguato prima dell'attività, quindi dei carboidrati, della pasta, del riso, un'ora e mezzo, due ore prima dell'attività, e di evitare di mangiare subito dopo. Un gelato, ad esempio. Assolutamente no, perché in questo modo sfrutteremo quell'effetto post-esercizio di attivazione del nostro metabolismo di base che ci consente di consumare in modo selettivo proprio i grassi. Volevo chiederle una domanda da pigra. Il cammino di un'ora, ad esempio, piuttosto che il nuoto di 30-45 minuti, però uno se è stanco si ferma, giusto? E poi ricontrolla l'orologio, o ha senso invece proprio questo sforzo continuativo? La domanda è assolutamente intelligente, direi. Per quanto riguarda il cammino o la mountain bike, sarebbe meglio uno sforzo continuativo, poi qualche pausa per la fotografia piuttosto che per due chiacchiere va benissimo. È ovvio che se parliamo di nuoto, di attività in acqua, dobbiamo prevedere degli intervalli regolari. È importante che siano intervalli brevi e regolari. Per esempio, sono in piscina, ogni vasca mi fermo 10-15 secondi, però faccio un lavoro che è continuativo con queste pause prefissate. Allora, intanto per questa settimana il vostro compito vi è stato assegnato, fateci sapere come va, che cosa vi sentite, perché il dottor Confalonieri torna con noi il prossimo lunedì per aggiungerci qualcosa. Che ci farà fare la prossima settimana? Beh, modificheremo l'allenamento, diciamo così, cardiovascolare e inseriremo un potenziamento specifico di alcune zone critiche, e penso in particolare agli addominali, ai glutei e alla zona lombare. Quindi zone calde. Zone calde. Grazie per essere stati con noi, la puntata termina qui e come sempre l'appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto, buona giornata.